È un'edizione sicuramente, diciamo, tra le più impegnative per noi perché in 3 giorni abbiamo veramente molti eventi. La nostra caratteristica è quella di scegliere gli argomenti che sono di maggiore attualità politica e anche più importanti dal nostro punto di vista. E quest'anno infatti abbiamo scelto argomenti la crisi della democrazia, i problemi del lavoro, che sono la nostra costante impegno, quindi sicurezza e precarietà del lavoro e inoltre, i problemi del territorio, la crisi dell'urbanistica e tutte le conseguenze delle nuove norme, delle nuove scelte in questo campo. E infine, ultimo, ma non per importanza, perché per noi è l'argomento forse più importante, quello della guerra e delle sue conseguenze dal punto di vista sociale, dal punto di vista dei diritti, dal punto di vista della sicurezza. Ecco, questi sono grosso modo, in estrema sintesi, gli argomenti contenuti in 5 eventi che si svolgeranno tra il 3 e il 5 di luglio. Tengo a dire che la festa è organizzata in contiguità e anche in contemporanea con la CGIL, anche in collaborazione con la CGIL Camera del Lavoro, che anch'essa si intitola Manifesta, e infatti il primo evento, quello sulla democrazia, lo abbiamo coorganizzato. E infatti ci sono due feste che quasi si sovrappongono. Sì, in effetti un po' è un caso, ma anche è diventata anche per il secondo anno una sorta, non dico di scelta, di occasione felice di collaborazione. Non abbiamo gelosie, sebbene la festa della CGIL è più imponente rispetto alla nostra, ma riteniamo che anche la nostra manifesta, diciamo, per i contenuti e anche per i relatori, gli invitati, sia tutt'altro che secondaria. Allora si parte mercoledì 3 luglio, si parlerà soprattutto di battaglia referendaria, poi invece il 4 si parlerà di urbanistica, come tu raccontavi prima, e di precariato. Contemporaneamente si parlerà anche di cambiamento di modelli lavorativi e di sicurezza sul lavoro, mentre invece il 5 si parlerà soprattutto della guerra, essendo anche che l'Italia è impegnata in questo momento su più fronti bellici. Sì, in effetti, per sottolineare l'importanza di questi argomenti, segnalo anche che il primo argomento, alla prima giornata sulla democrazia, interviene Nadia Urbinati insieme al segretario della Camera del Lavoro Bulgarelli. Nel secondo evento viene il giornalista Barbacetto a parlare di urbanistica e di territorio. Nel terzo evento, quello sulla guerra, interviene Elena Basile, ex ambasciatrice, insieme al professor Gallo, costituzionalista, al don Mattia Ferrari di Mediterranea e tanti altri esponenti. Per esempio, le due iniziative sul lavoro, che sono anche musicali, vedono, diciamo, la presenza di relatori specialisti sui temi della sicurezza e del precariato, tra i quali anche il segretario della Camera del Lavoro di Torino e di Lazzi, insieme al cantautore Isio Caravita, che eseguirà brani musicali relativi ai temi del lavoro. Quindi anche un momento, come dire, di gioioso, o comunque, insomma, di intensa partecipazione anche dal punto di vista culturale della nostra festa. Che risultato, voglio dire, ti prefiggi dopo questa manifestazione? La nostra attività di piccola associazione politico-culturale, tra l'altro editiamo il sito Il Manifesto in Rete, che fa informazione militante, anche controinformazione, è quello di arricchire la nostra base di partecipazione, perché in realtà siamo anche pochi a fare tante cose, e quindi ci auguriamo e faremo alla fine di quest'estate un'assemblea per aumentare la nostra base associativa, anche speriamo di giovani, perché l'impegno politico, l'impegno per la partecipazione sono una cosa fondamentale, ma c'è bisogno che la società si svegli, che questa crisi politica, questa crisi democratica trovi nuove energie per contrastare i gravi fenomeni di regressione politica e democratica che stiamo vivendo.